notte, ma non dormo. Penso ai tuoi occhi verdi che non mi guardano più. E piango nel buio tutto solo. So che tu non mi senti, ma forse piangi anche tu. Le nostre parole sembravano raggi di sole laggiù. Nient'altro che un ricordo, come i tuoi occhi verdi che non mi guardano più. Piangi anche tu. Le nostre parole sembravano raggi di sole laggiù dove ieri tu eri felice con me. Ora tutto è un ricordo, nient'altro che un ricordo.